Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Siamo con quella di oggi approdati all'appuntamento numero 200, puntata 200 per il soundcheck di Radio 24. A tutti voi buonasera da Gegè Telesforo e buonasera al Francesco Tromba, quello degli squilli di tromba, che ritorna nel Groovemaster Studio con un bel sorriso perché finalmente è riuscito a trovare un lavoro che ti avrà permesso anche di mettere qualche soldino in tasca. In realtà li ho spesi tutti per le bollette arretrate, per fare dei regali di Natale, quindi. È già una bella cosa non avere debiti in questo paese. Eh sì, almeno quello sono riuscito a farlo, dai. Non ho capito esattamente che tipo di lavoro hai fatto durante queste settimane di assenza qui dal soundcheck, ce lo puoi dire? Sì, ho lavorato in un call center. Ecco, questo è quello che succede nel nostro paese. Un ragazzo, un bel ragazzo, vabbè, insomma, carino, dai, carino, che è laureato con il massimo dei voti in scienze della comunicazione, poi deve comunicare in un call center. Sì, questo purtroppo offre il nostro paese in questo momento. Bene, però il nostro paese in questo momento offre anche della musica molto interessante. Visto che tu sei tornato, recuperiamo la nostra attenzione sul repertorio in italiano che io ho abbandonato in tua assenza. Di cosa vogliamo parlare oggi? Parliamo di un artista che è fra quelli che mi è piaciuto di più in assoluto, Domenico Imperato. Che sarebbe questo signore qui? Signor Imperato, benvenuto al soundcheck di Radio 24. Buonasera, grazie. Sta bene, scusami Tromba, ma il dottor Imperato non era in Brasile? Sì, però è tornato solo per il soundcheck. Sono tornato appositamente per voi dal Brasile. Grazie, dottor Imperato. Devo dire, un po' mi dispiace perché lei sa che ha lasciato il Brasile in questo momento. Bella stagione, c'è il sole e le ragazze sfoggiano quei bikini. L'estate è iniziata fluorescenti, ieri. Fluorescenti, così interessanti per un musicista. Come mai è tornato in Italia per affrontare il freddo? Questa domanda è la domanda fatidica che mi fanno tutti ogni volta. Si crea questo alone un po' di tristezza italiana. Perché tornare in Italia? Io sono tornato ormai da 3-4 anni, quindi 4 anni fa forse eravamo un po' meno tristi, non lo so, avevo voglia di portare indietro un po' tutto. Io lo so perché, lo posso dire, perché Domenico Imparato parteciperà al Festival di Sanremo fra le nuove proposte. No, in realtà no. Come no? Ma non aveva... Quelli erano i patti. Ma scusi, Imperato, lei non aveva presentato una bella canzone per il Festival di Sanremo di quest'anno? Sì, avevamo presentato una bella canzone, ma non la canzone di Platinette è più bella. La canzone, perché Platinette va a Sanremo? Va a Sanremo, tra i big. Sì, ma scusi, Imperato, io voglio sapere una cosa. Io ho proposto un duo con Platinette, ma... A chi ha scelto Platinette? Forse Carlo Conti, penso. No, non dico chi lo ha selezionato, ma con chi. Grazia di Michele. Con Grazia di Michele, è una strana accoppiata. Sì, è una strana. Una strana accoppiata. Senta, Imperato, ma voglio sapere, questa canzone che lei aveva presentato al Festival di Sanremo di quest'anno, e che quindi non è stata selezionata dalla direzione artistica, quanto era triste? Ma non particolarmente. La risposta se l'è data da solo l'Imperato, no? È per questo motivo che non è stato preso, era troppo poco triste. E perché venendo dal Brasile c'è quella gioia, un po' di saudagi ci deve essere, però sì. C'è quella gioia tipica di quella terra. Io direi allora di fare subito un esempio. Adesso non so se la canzone che avete scelto, che hai scelto per presentare l'arte di Domenico Imperato qui al soundcheck, è allegra abbastanza, però vorrei dire che l'album si intitola Postura Libera, poi ci racconterai perché, sì. E il brano che il nostro Francesco Tromba ha selezionato per presentarci Domenico Imperato si intitola Riposa. È allegro? Abbastanza. Resta quasi sempre come fiore il breve odore rosa, colore Si riposa e posa su di me, si riposa e posa su di me, si riposa e posa su di me. Riposa, un brano scritto, interpretato e realizzato da Domenico Imperato, che non parteciperà al prossimo Festival di Sanremo, ma è qui con noi al Soundcheck di Radio 24 per presentarci un album intitolato Postura Libera, una sua produzione per due etichette indipendenti. Quali sono? L'etichetta che ha pubblicato il disco è la New Model Label, e poi la Picicca sta curando la parte della promozione. Ecco, il disco non viene distribuito fisicamente, ma ancora soltanto in formato digitale, sì, via iTunes, quindi potrete scaricarlo anche abusivamente, perché intanto oramai abbiamo capito che la musica deve girare. Sì, no? Sì, c'è anche il mio, al momento è scaricabile anche sul mio SoundCloud. Senti, disco, come mai non hai stampato delle copie fisiche? Io ne ho una, forse le hai fatte per i concerti, perché lì si vendono. Sì, ho stampato le copie fisiche per i concerti, perché comunque sì, per far girare il disco. La distribuzione fisica, essendo un primo disco e l'etichetta non è un'etichetta grande, abbiamo pensato per adesso di aspettare, però forse sono uscite delle possibilità anche per avere il disco nei negozi. Intanto continuiamo a portarlo in giro nei live. Allora, tu sei fresco fresco di Brasile, quanto è stato importante per la tua formazione musicale e anche come stimolo creativo il Brasile? È stato fondamentale, è stato importantissimo, posso dire che mi ha cambiato la vita l'incontro con il Brasile. Perché? Perché è stata, io la ritengo la mia scuola di musica, una scuola musicale, perché la musica brasiliana è ricchissima. E secondo me la musica brasiliana è ricchissima soprattutto in quello che mi riguarda, in quello che faccio io faccio canzoni. Nella forma canzone, forse il numero di compositores, no? Che sarebbe già, questa è una cosa su cui molto spesso mi soffermo, il fatto che il cantautore in Brasile si dice compositor. In Italia ci si sente da cantautore e compositore solo nel momento in cui si deposita un pezzo alla SIAE, come autore e compositore. Insomma, questa cosa che del compositore classico noi abbiamo in Europa. Invece in Brasile un Rino Gaetano è un compositor. Io ti volevo fare una domanda. Sì. Quali sono le principali differenze che hai visto fra come viene vissuta e fatta anche musica in Brasile e come viene vissuta e fatta la musica in Italia? E la cosa principale del Brasile, anche non solo a livello musicale, in tutti i campi umani, proprio questa schiettezza, questa immediatezza appunto umana, sociale, sono più diretti i brasiliani. Non ci sono impalcature. Non ci sono impalcature, quindi diventa tutto, secondo me, è un po' questo pensiero che tu conoscerai bene, visto che tu hai... lavori anche in America, ma americano secondo me, non è solo brasiliano. Un po' noi in Europa forse siamo, non solo gli italiani, forse in Europa siamo un pochino troppo cerebrali a volte. Lì sono più diretti ed è bello perché si riesce a far girare di più la palla, no? Si creano più possibilità per tutti. Sì, anche da un punto di vista calcistico è così, no? Sì, esatto. Esatto, anche si va più all'attacco, sì, è più spregiudicati, no? Infatti sei uno che era molto spregiudicato, è stato uno dei più grandi autori della musica brasiliana, che era il poeta Vinicius, esatto, de Moraes. Spregiudicato perché non ha mai nascosto i suoi vizi, anche cioè, amava le belle donne, sì, te lo posso assicurare, e amava, che nove mogli. Potrebbe anche non essere un vizio. Ecco, quello invece di sposarsi nove volte è stato un vizio, no? Di forma forse. E poi amava l'alcol, tant'è vero che quando facevano i concerti insieme con Antonio Carlos Jobim, Vinicius aveva un tavolino con la bottiglia di whisky piena all'inizio, esatto, del concerto e vuota alla fine del primo tempo, pensa te. Allora, approfittando... La cosa curiosa è che lui, sempre parlando di questa spregiudicatezza che ti permette anche magari di dialogare tra settori opposti, lui era un diplomatico. Sì, diplomatico, certo. Che poi si è infilato nel mondo della musica popolare, leggera, brasiliana, quindi in un primo momento c'era un po' di... di vergogna, di titubanza, non poteva proprio, si doveva mettere un po' di spalle quando andava a fare i concerti con Jobim. Poi dopo è stata accettata questa cosa. Ecco, è un brano che hanno scritto Antonio Carlos Jobim e Vinicius G. Moraes, è proprio questa Samba delle Benedizioni, questo è il titolo in italiano, proprio perché questa versione, scelta da Francesco Tromba, è cantata da Vinicius in italiano. E poi alla fine è molto carino perché fa la benedizione anche a tutti i suoi amici. Eh sì, tra l'altro c'è una delle citazioni che mi piace di più in assoluto, e dice: la vita è l'arte dell'incontro. Io potrei dire anche: la musica è l'arte dell'incontro. È meglio essere allegri che essere tristi. Allegri è meglio cosa che esiste. Meglio essere allegro che essere triste. Allegri è la miglior cosa che esiste. È così come un sole dentro il cuore. Soundcheck, il suono della musica. E oggi al soundcheck, in questa serata meravigliosa di sabato, il nostro ospite Domenico Imperato, che è venuto a trovarci direttamente dal Brasile, anche se poi è nato in Puglia, esattamente in una città molto brasiliana che è Aquaviva delle Fonti. Aquaviva delle Fonti, una cidade molto molto cipollosa, eh? Sì, no, forse non lo sa Francesco Tromba, che è appassionato di peperoncino, visto che è calabrese, ma Aquaviva è famosa nel mondo per delle cipolle impressionanti, di dimensioni abominevoli ma dolcissime. Addirittura tu vedi i bambini già a 4-5 anni che invece di bere il latte dal biberon rosicchiano cipolle. Spediscimi qualche cipolla, ci facciamo una marmellata di cipolle, adesso c'è dei formaggi. Chiederò alla nonna e allo zio che c'ha la terra. Dunque il nostro Domenico Imperato non andrà al Festival di Sanremo, pur avendo presentato una canzone, però una nota di merito già ce l'ha con questo primo disco intitolato Postura Libera. Sì, è rientrato fra i 30 migliori album d'esordio del premio Tenco del 2014 ed ha vinto il premio Fabrizio De André del 2014 come appunto album d'esordio. E allora Domenico, poi visto che mi hai portato questo disco ed è anche già una rarità perché non è in distribuzione il disco fisico, mi metterai l'autografo. Non okay. Me lo metterei, perché se poi tu dovessi andare al Festival di Sanremo fra l'anno prossimo o fra qualche anno, o ti presenterai a X Factor e vincerai X Factor, io potrò dire a mia figlia: ecco, vedi, in anticipo, noi l'abbiamo presentato in anticipo. No, sto scherzando naturalmente, però ti faccio i complimenti perché grazie. Insomma, già farsi notare con un disco d'esordio in questo momento, viene stampata e pubblicata tanta musica, non è una cosa facile. Sì, è un periodo, ci sono tante cose, però questa del Tenco è stata carina, questa segnalazione, che eravamo 30-35 dischi d'esordio, no? Nella categoria esordio c'ero anch'io. E poi la cosa bella è stata a settembre il premio De André, che sono andato tra l'altro in chitarra e voce, sono andato. Io avevo lavorato su questo pezzo, avevo lavorato proprio con un grande maestro, Pasquale Minieri, no? Eh sì, un formidabile ingegnere del suono. Quindi è stato un bel risultato per me, ma anche magari da dedicare a Pasquale, no? Perché lui mi ha aiutato quando sentì questo pezzo, gli piacque parecchio. Poi i risultati, non vorrei ripetermi, ma 2 anni fa questo pezzo era stato presentato a Sanremo, anche Pasquale lo volle presentare e non ci presero. Niente. E poi alla fine però almeno Fabrizio De André ci ha assistito dall'alto e ci ha dato almeno questa piccola riconoscimento. Senti, nell'album Postura Libera c'è una canzone molto carina intitolata Frutta Tropicale, e questo sì, credo che sia proprio un brano probabilmente nato lì durante sì, la tua permanenza in Brasile. Sì, questo è nel disco è il brano più giocoso, diciamo, e il problema è che in Brasile a brincadeira il gioco. A brincadeira? La levano a serio, no? La prendono poi in sé. Beh, è una cosa importante. Sì, ci credono nella brincadeira, quindi io ho fatto questa brincadeira è più che una canzone, è una danza, perché in quel periodo ero a Rio e avevo conosciuto questo gruppo di musica popolare che faceva tutti i balli del nord-est del Brasile e ho scritto questa genere. Qual era? È il carimbó, che è un baião ancora più folclorico, no? Nel nord-est c'è il baião, il xoxi, il forró, che sono tutto il filone della musica nordestina, no? Luis Gonzaga. Sì, è scritta proprio per ballare. Sì. Insomma, questa cellula ritmica con la fisarmonica, triangolo. Sì, sì. E il carimbò è ancora, si sposta un po' verso la zona dei Caraibi, no? Guarda, facciamo una cosa, ascoltiamo Frutta Tropicale e poi torniamo sulla rock. Ok. Acerola, manga, pitanga, graviola, maracuja, cupo, açúcar, juja, boticaba. Acerola, manga, pitanga, graviola, maracuja, cupo, açúcar, juja, boticaba. Saputi, manga, bambu, caja, fruta do conde. Jaca, manca, mua, abacate, abacaxi, carambola, siriguela. Jaca, manca, mua, abacate, abacaxi, carambola, siriguela. Chaca, camu, camu, abacate, abacaxi, caramola, siriguela. Eta Domenico. Frutta Tropicale, Domenico Imperato al soundcheck di Radio 24. E il dottor Imperato, nostro ospite, ha preso spunto da vari generi tipici del nord-est del Brasile. Esattamente questo era un ritmo che dicevi di carimbò? Sì, questo è un baião. Un baião. Sei esperto di baião, te, tromba? No, non sono molto esperto. Allora dovresti frequentare un po' di più Domenico Imperato. Secondo me te una passeggiata in Brasile la devi fare assolutamente. Come esperto in scienze della comunicazione, e se non vai in Brasile dove la comunicazione, come diceva Imperato, è diretta fra gli umani e senza impalcature, io non so come possa fare tu a sopravvivere ancora. Infatti è uno dei miei paesi preferiti, ancora non ci sono mai stato perché appunto non avendo una grossa disponibilità economica per viaggiare. Non so. Vabbè, ma lui non ha capito che deve viaggiare proprio come diceva un mio amico, che si chiamava Fausto Erpantera, diceva che lui partiva senza soldi perché il viaggio doveva iniziare a una stella e finire a 5 stelle. Proprio perché ci possono essere delle probabilità che ti portano poi a vivere la vita a livelli superiori. E allora utilizzerò il suo metodo, dai. Esatto. Partire a una stella e finire a 5, non è male, eh? Beh, non tutti ci riescono, però. Tu quando sei partito per il Brasile, come ci sei andato? Con i soldi in tasca? Qualcosina, perché c'era un appoggio all'università, però poi sono anche tornato da solo e non è come stato l'appoggio facile. All'università, perché ci sei andato per motivi di studio? Sono andato per motivi, pure io sono laureato nelle scienze delle comunicazioni. Ah, due scienziati. Senti, vabbè, che cosa hai scelto come brano adesso, mio caro Francesco Tromba? Sì, ho scelto Joe Barbieri insieme a Gianmaria Testa, un brano che si chiama Le Milonghe del Sabato. Ci spostiamo un po' più a sud, magari i brasiliani non apprezzeranno molto l'accostamento con l'Argentina, però è comunque un brano che mi piace molto. Quindi insomma restiamo sempre in un'atmosfera tropicale anche qui, eh? Questo sicuramente è un po' più malinconico come brano. Sì, un po' più malinconico comunque. Beh, giustamente. Joe Barbieri con Gianmaria Testa in Le Milonghe del Sabato al soundcheck di Radio 24. Guardo la tibia, il perone andante, tu altere distante, non sai neanche di me. Grave ti aggrappi all'orlo di un altro, un ballo da ultima spiaggia per te. E tra le tue amiche serpenti, agentili di neghi, ne fai fuori altri tre. Mi rimangio le mie avance e al mio tavolo entrans me la prendo con me. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Domenico Imperato, 33 anni, da Acquaviva delle Fonti, ospite del soundcheck, ma con il sangue in parte brasiliano, album nuovissimo per lui intitolato Postura Libera, nostro ospite. E credo, mio caro Francesco Tromba, che forse se Domenico, ecco Domenico, prendi un po' la chitarra che è lì nell'angolo, ecco, eccola. Com'è? Vedi un po' se è accordata? Non so se ti va di fare qualcosa, eh? Così proprio. Facciamo ascoltare qualcosa in versione acustica del disco. No, dai. Intanto dimmi una cosa, perché l'hai intitolato Postura Libera l'album, a parte la canzone che poi è presente? C'è la canzone, Postura Libera, di che parla? Facciamo pure ascoltare. Guarda, è un accostamento curioso, no? Perché la postura è fisica, invece libera magari, e anche nel testo io in realtà poi parlo di cose un po' che riguardano più magari la sfera emotiva, spirituale, non so, dell'anima. E quando poi ho chiuso il disco mi sembrava che queste due parole potessero sintetizzare un po' tutto il lavoro, no? Questo modo di porsi appunto in maniera forse un po' più schietta, più anche coraggiosa, sincera, un diritto di libertà, ma anche un dovere di relazionarsi con quello che si fa in maniera libera. Si vede che ha studiato scienze della comunicazione? Sì, sa parlare, dai. Siete tutti uguali, è vero. Vabbè. Allora, che ci fai sentire? Che vuoi suonare prima? Vi faccio ascoltare un brano che si intitola Muscoli ai remi e che secondo me è quello forse dove... Dedicato ai pescatori della provincia di Bari? No. C'è tanto mare, quindi ci sarà... Però è un viaggio in mare ed è quello forse che più sintetizza l'incontro tra... il sottoscritto italiano. Tu hai detto Quaglie Fonti, però io sono nato lì ma ho vissuto a Pescara, sono cresciuto a Pescara. È sempre sul mare ed il Brasile, quindi questo pezzo è un samba lento in italiano. E vai, dai, facci sentire. Se bomba tu maya po, tu maya po, tu maya po, tu maya po nambo hi ha nabo. Fai un applauso, Francesco Tromba, dai. Ecco, già va bene così. Domenico Imperato qui live, lo posso dire, esatto. Al soundcheck nudo e crudo, chitarra e voce, che poi è la dimensione ottimale, esatto. Credo, per poter scoprire i testi belli e le belle canzoni. Le belle canzoni vengono scritte così, sì. Non sul computer, ma nell'intimità della propria cameretta o su una bella spiaggia, quando c'è l'ispirazione, e credo che questa canzone sia nata più o meno in questo modo. Sì. Chitarra e voce. Senti, facciamo una cosa, anche perché fra pochissimo dobbiamo andare all'informazione, accennami qualcosa di Postura Libera e poi ascoltiamo sempre dal disco Gira. Ok. Vai, proprio un accenno di Postura Libera. Facciamo un po' reggae, dai. Postura libera, natura, vuol che sia, libera sia. Postura libera, natura, vuol che sia, libera sia. Pura parola, pura parola, pura, pura parola, libera. Pura parola, pura parola, pura, pura parola, libera. Grazie a Domenico Imperato, puoi restare con noi, adesso noi facciamo una breve pausa, facciamo partire Gira dall'album Postura Libera, poi breve pausa perché c'è l'informazione di Radio 24 e torniamo qui al soundcheck con una seconda parte sempre in chiave tropicale brasiliana, ma vi faccio ascoltare delle cose bellissime. Restate con noi qui al soundcheck di Radio 24. Dipendendo dal tempo, lei mutava d'umore, con il sole e col vento, gli diceva mio amore, ma se veniva giù pioggia, lei si chiudeva a chioccia, non voleva carezze, le sue mani schivava. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. E il nostro Domenico Imperato è ancora con noi e ha praticamente ispirato il sound di questa puntata con la sua passione per il Brasile, e quindi anche questa seconda parte del soundcheck di Radio 24 approfitta di questo concept per continuare su questa selezione musicale dedicata alla musica brasiliana. Ma invece di scegliere artisti tipicamente brasiliani, ho scelto artisti internazionali che hanno, come Domenico Imperato, la passione per il Brasile, e ce ne sono tanti. Allora, uno fra i miei preferiti è stato il grande maestro di tastiere, maestro della fusion e del funk, George Duke, purtroppo scomparso recentemente, più o meno un anno fa, e a George Duke hanno regalato il loro tributo tutti i suoi amici, fra questi il formidabile bassista Stanley Clark, con il quale George Duke ha militato a lungo, e ultimamente Stanley Clark ha realizzato un album intitolato Up, che tra l'altro ha preso una bella nomination ai prossimi Grammy Award per quel che riguarda il jazz. Se dovesse vincere Stanley Clark, forse c'è stato anche il nostro Zampino? Assolutamente no, però certamente Up di Stanley Clark è un disco che ci è piaciuto molto, molto divertente, molto ben realizzato, con sound tipicamente americano. Che ne pensi di Stanley Clark, Francesco Tromba? Beh, formidabile, un monumento, un punto di riferimento comunque anche per quanto riguarda lo strumento proprio del basso, sia elettrico sia anche del contrabbasso. Eh sì, è vero, hai fatto bene a ricordarlo, perché Stanley Clark ha iniziato la sua carriera proprio come contrabbassista di jazz, poi ha scoperto il basso elettrico e è stato uno dei primi sleppatori, ovvero quella tecnica che utilizzano i bassisti elettrici di strappare le corde per ottenere un sound aggressivo e super funky. Stanley Clark ha militato a lungo con Chick Corea, ma qui sentiamo il suo tributo a George Duke con questo brano intitolato Brazilian Love Affair, e qua dobbiamo legarci alle sedie perché le gambe partono da sole. Soundcheck, il suono della musica. Stimolati dal nostro Domenico Imperato, che ha portato qui al Soundcheck l'album Postura Libera, stimolati per la sua passione per il Brasile, oggi l'airplay del Soundcheck verte un po' sulle sonorità brasiliane, anche di artisti che non sono brasiliani e che fanno altro, ma che in qualche modo ritmicamente e anche da un punto di vista armonico risentono dell'influenza dei grandi compositori brasiliani. Ma io volevo chiedere a Domenico Imperato: come mai il nostro paese, l'Italia, è così vicino e così legato al Brasile? Sarà la passione per il calcio, la passione per le belle donne, o c'è qualcosa di più profondo? Secondo me c'è una... Hai visto come è iniziato? Brasiliero proprio. Secondo me c'è un'affinità anche un po' di carattere italiano. Ultimamente siamo un po' rattristiti in Italia, però in Europa siamo conosciuti un po' come un popolo solare, no? Noi siamo un popolo allegro, e quindi forse c'è questa empatia tra noi e il Brasile. E poi, vabbè, io sono stato a San Paolo, dove c'è stata una forte migrazione di italiani nel passato. Sì, c'è una bella comunità. C'è una comunità, sì, è una delle comunità stranieri, di comunità straniere più grandi a San Paolo. Sono dei quartieri, c'è anche un filone si dice che il samba paulista, la musica popolare brasiliana paulista, è diverso da quello carioca, proprio sì. A causa, quello carioca è più nero, carioca è Rio de Janeiro. È più nero e più africano. Quello paulista ha un'influenza dell'italianada, infatti il più grande compositore di samba paulista è Adoniran Barbosa, che in realtà si chiamava Joao Rubinato, quello di Trem da Sol, sono figlio unico. Ah, quella, sì, sì, certo, lì, certo. Prendo, che è stato anche un successo in Italia negli anni 60, tradotta, no? Però tu dicevi, gli italiani adesso vivono con un velo di tristezza per motivi economici, per tante cose, però anche il Brasile non se la passa bene negli ultimi anni, no? Perché adesso c'è proprio c'è una forchetta spaventosa, ci sono i ricchissimi e c'è la gente... C'è stato un momento che invece andava un po' meglio. Sta soffrendo. Sì, c'è stato un momento di crescita quando noi invece è arrivata la crisi, lì c'è stato un periodo in cui le cose sono un po' migliorate in Brasile, però ci sono sempre, c'è questo divario, c'è ancora... E c'è ancora tanto da fare. No, perché io mi ricordo già anni fa, insomma, ti sto parlando di 7-8 anni fa, forse 9 anni fa, noi avevamo l'euro, era appena arrivato l'euro. E si andava in Brasile, effettivamente la vita poteva essere anche vantaggiosa per noi con il cambio della moneta. Invece adesso in Brasile tutto costa tantissimo. Sì, adesso sono saliti un po' i prezzi. No, i prezzi di tutto, delle automobili. Io non so i brasiliani come fanno, no? Perché poi non è che guadagnano tanto, gli stipendi medi sono molto più bassi dei nostri, però i costi per loro sono altissimi. C'è questo divario, no? Tra chi non ha niente e chi ha tutto, però negli ultimi anni il Brasile è cresciuto, anche la classe media si è un po' ricompattata, diciamo. Allora, ti faccio ascoltare un altro artista di riferimento della soul music di oggi e dell'R&B, si chiama Eric Robertson, ha realizzato un album intitolato The Box, quotato dal sito di riferimento soultracks.com come uno degli album più importanti della passata stagione. E anche Eric Robertson, con la complicità di Tracy Lee, celebra a suo modo il sound brasiliano con questo brano potentissimo intitolato Lust for Love. Man, I'm mistaken, lust for love. Here I am, I never thought I'd be the man. I'm mistaken, lust for love. Here I am, let's sing it again, come on. Man, I'm mistaken, lust for love. Here I am, I never thought I'd be the man. I'm mistaken, il sound di Eric Robertson con la complicità di Tracy Lee, Lust for Love, dal nuovo album The Box, considerato uno dei migliori del 2014, non so se ha beccato una nomination, non mi sembra, però soultracks.com lo quota come una delle migliori produzioni della passata stagione. Vedo, mio caro Francesco Tromba, oggi ti vedo un po' spento, forse non hai preso il dosaggio giusto di peperoncino, che ti sta succedendo? C'ho un po' di mal di gola, sono un po' raffreddato. Ma non hai portato la cachaça brasiliana, Domenico? Perché quella tira su e poi gli mette cachaça brasiliana e cipolle di Acquaviva delle Fonti. Una bella combinazione col tuo peperoncino, sai che puoi combinare? La pozione che... No, ci sono due strade: o guarisci nel giro di poco tempo o ti ricoverano. Sai che mi ricoverano. Allora, si parla di Brasile, un altro artista di riferimento della soul music, inglese questa volta, è Omar, bravissimo, scoperto ormai 20 anni fa dal talent scout Giles Peterson, questo dal nuovo album, si intitola Ordinary Day Omar, e qui Omar, invece di rifarsi a quella samba funk che abbiamo ascoltato con Stanley Clark e Eric Robertson, recupera invece un ritmo classico, quello che ha visto i grandi maestri come Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque di Hollanda, protagonisti, ovvero la bossa nova. Eccolo qui Omar, questa è la sua versione bossa nova di Ordinary Day, qui al soundcheck di Radio 24. Oh, zippa, tucutu, zippa, inzippa, tucutu, zippa, inzippa, tucutu, zippa, inzippa, tucutu, zippa, inzippa, tucutu, zippa, inzippa, tucutu, zippa, inzippa, tucutu, zippa, baby, baby. I just like to say my love has grown deep in me. Now that I've got two babies of my own. Soundcheck. Il suono della musica. una puntata tutta dedicata al Brasile, ma abbiamo cambiato percorso perché dal sound brasiliano proposto anche da artisti di riferimento del jazz e dell'R&B ci siamo spostati a un genere assolutamente afroamericano che è il gospel, qui proposto dalla bravissima Erika Campbell, un tempo faceva parte del duo Mary Mary, adesso come solista ha realizzato questo brano intitolato Help con la partecipazione del rapper Lacree, e questo brano ha beccato una bella nominations nella sezione gospel per i prossimi Grammy Award e probabilmente Erika Campbell riuscirà a portare a casa il premio sognato. Dunque siete in contatto con il soundcheck di Radio 24, con noi ancora Domenico Imperato che si sta gustando, credo, sì, buona musica. Mi auguro di aver fatto una selezione ottima adeguata musica, anche alla tua personalità. Sì, sì, la musica buona è sempre ben accetta. Lo segui il gospel anche? Ho cantato 3-4 anni quando vivevo a Roma in un coro gospel, era un'esperienza fantastica. E poi seguo alcuni artisti, è uscito un disco bellissimo di Laura Mvula che si ispira molto al gospel, ma anche pensavo a qualcosa, un disco di Ben Harper, alcune sue sonorità che si rifanno al mondo del gospel, e lui è un altro dei miei riferimenti. Ma quando sei cresciuto in quell'ambiente, hai frequentato la chiesa battista o evangelica, e sei cresciuto in una casa con una nonna o con una mamma che cantano in un coro gospel, o col papà ministro di una scuola gospel, purtroppo cresci con quel tipo pane di DNA. Tutti i giorni. Tu nel DNA, nascendo a Acquaviva delle Fonti e vivendo a Pescara, che cosa ti sei portato dietro? Io mi sono portato dietro anche mio padre, che è napoletano e che cantava le comunioni. Sì, secondo me mi sono portato dietro questa cosa del Mediterraneo. Cosa nostro. Cantava? Le canzoni napoletane. E quelle sono bellissime. Quelle sono immortali. Diciamolo pure, immortali. Sì. Composizioni strepitose. Bene, si parla di musica al soundcheck come sempre, e dal gospel di Erika Campbell passiamo a un David Bowie assolutamente inatteso. È stato pubblicato da poco questo album che ci racconta tutta la sua lunghissima carriera, e all'interno di questa compilation c'è un brano originale, si intitola Sue, ovvero Or in a Season of Crime, una composizione che vede David Bowie affiancato da un organico che è una big band jazz, con tanto di arrangiamenti realizzati dalla bravissima Maria Schneider. Un suono abbastanza diabolico, ecco, è bello perché dopo il gospel di Erika Campbell vediamo che cosa combina di diabolico David Bowie, ma mi sa che ci sono anche delle novità che riguardano il Duca Bianco. Sì, ha rifiutato di cantare un pezzo che gli era stato proposto da Chris Martin, il leader dei Coldplay. Lui, appunto, Chris Martin aveva fatto questo pezzo, gliel'ha mandato, David Bowie l'ha chiamato dicendogli: no, io questo non lo canto perché secondo me non è il tuo pezzo migliore, non mi piace. Chissà come gliel'ha detto. Se gli ha mandato un telegramma, una mail, oppure gli ha detto: guarda, no, Martin, il pezzo è una schifezza. No, proprio al telefono, dice. Gliel'ha detto al telefono proprio. Pensa come ci è rimasto male il leader dei Coldplay. Sì, nonostante diciamo il Duca Bianco abbia collaborato anche con artisti che non sono veri e propri artisti come Scarlett Johansson, sentirsi rifiutare. Ho capito, come fai a rifiutare una collaborazione con Scarlett Johansson? Già solo per stare nella stessa e soltanto per averla a fianco, insomma, hai capito di chi stiamo parlando? Sì, mi rendo conto. Sì, di una piccolina compressa Scarlett Johansson. Sì, però molto buona. Lo doveva dire lui che è molto buona. Vediamo qui David Bowie al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, la verità è che quando ci lascia un artista così, un musicista, un autore come Pino Daniele, ci sentiamo tutti tutti orfani. Quando ci lascia un compositore che ha scritto melodie immortali che hanno accompagnato momenti importanti della nostra vita, ecco, è come se avessimo perso anche noi un parente stretto. Oggi, a qualche giorno dalla sua scomparsa, sento di, vorrei fare insomma le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, ma anche agli amici, ai musicisti, agli appassionati di musica che hanno amato le sue bellissime canzoni. E personalmente in tanti anni di carriera ho incontrato Pino Daniele in diverse occasioni, ma dispiace non aver avuto la possibilità, l'occasione giusta di poter fare musica insieme, di poter condividere un palco, di diventargli amico, ecco. Dispiace non aver avuto il tempo di potergli dire personalmente quanto ho amato la sua musica, quanto la sua musica è stata importante anche per me. Grazie Pino, grazie a tutti voi, grazie a Francesco Tromba e a Domenico Imperato, grazie per la partecipazione. A domani. Sound Check, il suono della musica. Sto vicino a te, uccidendo strilla tu. Sto vicino a te.